Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Si è conclusa settimana scorsa la terza conferenza nazionale sull'efficienza energetica organizzata dall'Associazione Amici della Terra. È stata una 2 giorni che è dedicata, diciamo, ad approfondire soprattutto i temi legati all'efficienza energetica negli edifici e alle rinnovabili termiche, ed ha avuto anche un titolo particolarmente suggestivo quest'anno: sfruttare la miniera del calore. È moltissimo infatti il calore che viene disperso e che potrebbe invece essere riciclato e utilizzato ad altri fini. Ed è proprio su questo tema che vogliamo fare il punto questa sera, con l'aiuto di Andrea Molocchi, che è responsabile studi dell'Associazione Amici della Terra. Buonasera Molocchi, benvenuto. Buonasera a tutti. Bentornato, anzi. Allora, intanto partiamo dai grandi numeri. Quanto calore sprechiamo? So che avete fatto qualche conto. Ma il tema del recupero del calore è un tema che è venuto alla ribalta con la nuova proposta di direttiva comunitaria sull'efficienza energetica, e che prevede alcune proposte di grande importanza come l'obbligo cogenerazione o l'obbligo di recupero del calore. È proprio per questo che la terza conferenza nazionale ha inteso mettere in evidenza rispetto agli operatori dell'opinione pubblica questo tema del recupero del calore e delle tecnologie che gli stanno dietro. Normalmente quando si parla di efficienza energetica si va a vedere quello che si riesce a produrre in termini energetici. Quello che ci si dimentica è l'altra faccia della medaglia, è quanto viene dissipato in ambiente. E fare questo calcolo, fra l'altro, non è nemmeno semplice, perché le statistiche non sono attrezzate per capire quanto buttiamo via, ma appunto sono orientate a calcolare o a quantificare quanto riusciamo a utilizzare, magari, ma non quanto buttiamo quanto via. Quanto riusciamo a utilizzare. Ovviamente questi dati comunque in Italia ci sono, qualcun altro li produce. Posso dire che è ad esempio Terna che fa questo tipo di statistiche, per cui è possibile in qualche modo risalire e ricostruire un po' la panoramica degli sprechi, almeno diciamo nel settore fondamentale che è quello della trasformazione energetica per produrre energia elettrica. Sì. Soltanto nel settore della produzione dell'energia elettrica vengono dissipati in atmosfera 164 terawattora di energia termica, 14 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, praticamente il 10% del bilancio energetico nazionale. È una cifra notevolissima, e questo è dovuto al fatto che molti nostri impianti per la produzione di energia elettrica non recuperano il calore, circa la metà non recupera il calore. Ecco, spieghiamo in pratica che quando si produce energia elettrica, per esempio, si brucia del metano, questo fa girare una turbina, ma quello che viene fuori non è aria fredda all'uscita della turbina, è aria ancora molto calda. Questa viene buttata in atmosfera, mentre per esempio potrebbe essere utilizzata per riscaldare dei condomini oppure uno stabilimento industriale. Esattamente. E poi però ci sono anche altri tipi di spreco di calore, no? Sì, perché gli sprechi di calore avvengono in tutti i processi energivori, ci sono industrie di processo che vanno dalla siderurgia alla produzione di carta, insomma sono processi che consumano grandi quantità di energia, che sono anche processi molto efficienti perché cercano di recuperare il più possibile, ma alla fine della fiera l'energia residua viene dissipata in atmosfera, anche se potrebbe essere molto prezioso il suo recupero. E proprio nell'ambito della nostra conferenza abbiamo quantificato le potenzialità di recupero di questo calore di processo per produrre elettricità, ed sì, è un potenziale cospicuo, che di circa un terawattora che è recuperabile di energia elettrica utilizzando semplicemente il calore che altrimenti verrebbe buttato via. Fra l'altro, dietro questa industria del recupero del calore per la produzione di energia elettrica ci sono delle tecnologie che sono appannaggio dell'industria italiana, quindi sarebbe estremamente interessante, promettente quello di riuscire a dare sviluppo a questo tipo di industria. Lei parla della tecnologia ORC, vero? Sì, cosiddetta. Colorante inorganico, in realtà sì. Altre applicazioni del calore di scarto alternative allo spreco? L'applicazione ovviamente tradizionale è quella del teleriscaldamento. Certo. Però ci sono anche altre applicazioni cui spesso non si pensa. La prima è quella di riuscire a produrre il freddo utilizzando il calore residuo di processo. Questo avviene attraverso macchine frigorigene. Per esempio, queste macchine frigorigene dove possono essere utilizzate? Cioè, quando si ha un surplus di calore ma magari ci serve poi del freddo? Ma l'industria alimentare che ha bisogno sia di calore che di freddo per esigenze di condizionamento di processi, ecco, queste industrie potrebbero utilizzare il calore di scarto, mandarlo dentro questi apparati che dovrebbero essere i cosiddetti frigoriferi ad assorbimento, che producono del freddo con quale conservare il pollo che magari è stato cotto nella fase precedente, insomma. Esattamente, ma questo si può anche pensare a un teleraffrescamento, cioè a un recupero di questo calore per fare il condizionamento estivo negli edifici. Ovviamente tutto questo è complicato, non sempre conveniente, però se lo si progetta in anticipo, cioè nel momento in cui le nuove localizzazioni industriali devono essere progettate o pensate o decise, ovviamente è possibile intervenire in maniera precoce per ottimizzare i processi produttivi, e questa è la cosiddetta simbiosi industriale, cioè cercare di localizzare gli impianti in maniera tale da massimizzare l'efficienza energetica là dove ci sono dei bisogni di caldo o di freddo da soddisfare. Cioè cercare di creare delle sinergie, insomma. Creando, no? Delle sinergie, si evita l'utilizzo di combustibili fossili ex novo, cioè si produce e si anche energia, ma non solo energia, si può produrre anche acqua potabile semplicemente dissalando l'acqua di mare senza utilizzare combustibili fossili, semplicemente riutilizzando il calore altrimenti disperso in atmosfera. Grazie Andrea Molocchi. Grazie a tutti voi. Beh, una notizia prima di salutarci, perché possiamo dire, ne siamo molto soddisfatti, che è stato confermato il 55% di detrazione fiscale sulle riqualificazioni energetiche degli edifici, un impegno che il ministro Clini aveva preso proprio qui ai microfoni di Radio 24. Ci sentiamo domani.